Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore. Non perdetevi il suo punto di vista sui tanti fatti di questa settimana. Siateci dunque sabato alle 14 a Non ci sono più le mezze stagioni, su Radio 24 naturalmente. Anche sul canale 700 di Sky.